La società micenea. I Micenei non formarono mai uno stato unitario. Erano infatti divisi in tante città-fortezza indipendenti. Le città più importanti erano Micene, Tirinto, Argo e Pilo. Ogni città era guidata da un re, chiamato Vanax, che era anche il capo militare e religioso, e da un gruppo di nobili guerrieri, che erano anche i proprietari delle terre. La maggior parte della popolazione era composta da pastori, contadini, commercianti e artigiani. C'erano anche gli schiavi, che in genere erano prigionieri di guerra. Tutte le città micenee sorgevano su un'altura ed erano circondate da alte mura erette per difendersi dai nemici. L'accesso alla città avveniva attraverso una porta. Nella parte più alta della città, chiamata Acropoli, si trovavano il Palazzo Reale, dove vivevano il re e la sua corte, e gli edifici sacri. Nella parte più bassa si trovavano i magazzini e i laboratori degli artigiani. All'interno delle mura, ogni città micenea era dotata di una cisterna d'acqua, che serviva sia per gli usi quotidiani, sia come riserva in caso d'assedio. Nella città di Micene, in una zona recintata da pietre, sono state ritrovate anche le sepolture di alcuni re o principi. Le abitazioni della popolazione si trovavano fuori dalla città-fortezza. In caso di attacco nemico, gli abitanti si rifugiavano all'interno delle mura.